che io viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Faccio subito un'infame premessa, che è anche una promessa. Oggi, come già facemmo una settimana fa, per stimolare l'attenzione degli ascoltatori e questa mattina soprattutto delle ascoltatrici, useremo un subdolo sistema. Anche oggi, come già facemmo e come già gratificammo tre fortunati ascoltatori, abbiamo attinto dal nostro armadietto dei libri infami tre meravigliosi volumi che noi regaleremo, non tanto il valore in sé del libro infame, ma quanto sarà personalizzato con florilegi, note, proclami d'amore, quello che volete, insomma, vi ci mettiamo dentro, ai tre ascoltatori, ascoltatrici, meglio ascoltatrici, dato l'argomento che fra un po' vi presterete ad ascoltare allontanando i bambini dalla radio, se possibile, che maggiormente contribuiranno al successo di questa puntata. Andiamo dunque al tema della puntata, il numero è 800240024, chi maggiormente, con maggior fantasia, con maggior passione, con maggior impeto, con maggior partecipazione, con maggior senso di totale impudicizia oggi ci aiuterà a arrivare felicemente alle 11, sarà premiato con un libro infame. Ciao, mi chiamo Sofia, ho 33 anni, sono nativa delle Marche, di Ancona, e attualmente abito in città, abito a Milano. Sono stufa degli uomini che incontro, che non hanno minimamente la capacità, anzitutto che non sanno capire che io valgo o se valgo più di un'altra ragazza. Tutte le donne sono uguali. Al di là poi della visione prognostica, no, della concretizzazione, non parlo solo di quello, in generale anche solo per compagnia così, sono tutte uguali, anzi più sono stupide meglio è. Dato che l'argomento presenta dei lati piuttosto scabrosi e dato che ho consigliato di allontanare dall'apparecchio radiofonico le persone particolarmente sensibili, menerò il camperlaia ancora per qualche minuto, sì, permettendo di prendere la nonna, appoggiarla fuori del balconcino, prendere le persone che potrebbero rimanere turbate nella loro intimità da quello che stiamo per dire. Questa è un'ascoltatrice che ci ha posto un problema. È un problema di tipo sindacale. Questa ascoltatrice vorrebbe stabilire il tetto di un minimo sindacale per cui una donna si possa sentire liberamente e leggermente pronta alla sua intima d'azione. Detto in questi termini, non credo che abbia nulla che possa urtare la vostra sensibilità. Dato per scontato, anzi per auspicato, il lecito esercizio dell'intima d'azione da parte di ogni donna, dall'età maggiore fino ai 100 e passa anni, ammesso che poi trovi apprezzanti e apprezzatori, questo non può essere fatto naturalmente gratuitamente, così, per un solo gesto di generosità verso l'umanità, per l'altruismo innato che ha il genere femminile, no. Occorre stabilire un minimo sindacale. Per cosa una donna può darla tranquillamente, serenamente, senza sentirsi complessi di colpa? Qual è il minimo sindacale? Quello che oggi, alla luce della sensibilità corrente, del comune senso della libera d'azione, una donna pretende perché possa concedere ciò che di più prezioso, di più intimo e di più personale ha un uomo? 800240024. Cosa dovrebbe fare un uomo per venire a letto con me? Gradirei essere corteggiata, anche con romanticismo, che però non è il romanticismo vuoto di quello che, per esempio, il romanticismo che ti mette ricco, che ti corteggia portandoti nelle cene belle, nei posti di lusso, eccetera. Quello non è il romanticismo, quello è soltanto un'ostentazione. Allora, il corteggiamento di cui parlo io è un uomo che sia sempre disponibile per me, che mi dimostri, ad esempio, chiamandomi, essendo sempre disponibile, più che altro quando io chiamo lui, ad accontentarmi, voglio uscire, questa sera ti voglio vedere, e lui deve essere disposto a farlo per me. Chiaramente mi deve portare a cena, mi deve portare nei bei posti, mi deve fare qualche regalo, deve spendere del tempo per me. Il tempo vuol dire tempo al telefono con un sms ogni tanto, tempo di vedermi durante la settimana, anche se magari una volta dopo il lavoro è stanco, deve trovare il tempo per me. Questa è la cosa fondamentale. Voglio andare in giro con lui. Abbiamo aperto un tavolo di discussione e stiamo sentendo quello che propone la nostra controparte. non chiede cose molto complicate né cose particolarmente onerose, ma comunque sì, è un impegno. Non chiede ostentazioni di denaro. Naturalmente l'intima d'azione per denaro rientra in un'altra categoria di esseri umani, quelle professioniste che concedono l'intima d'azione per denaro o per profitto, ne abbiamo già parlato lungamente, è una variegata categoria di persone che vanno dalle escort alle datrici strumentali, abbiamo fatto lunghe dissertazioni su questo. Qua stiamo parlando delle romantiche procacciatrici di piacere a se stesse e agli altri, di coloro che aprono una fessura nel tedio quotidiano e permettono all'umanità di sguazzare felice anche soltanto per alcuni istanti, per alcuni momenti, per giorni, mesi, settimane, anni se volete, nella piacevolezza di un incontro profondo. Cosa vogliono in cambio? Sofia dice che innanzitutto, escluso l'aspetto prezzolato, l'ostentazione, la burina manifestazione di beni di consumo, di possibilità di acquisto, vorrebbe innanzitutto un po' di attenzione, vorrebbe avere la certezza che la persona dia una certa disponibilità. Qui si apre una questione abbastanza limacciosa, controversa, ambigua. Cosa vuol dire? Quando io mando un sms deve rispondermi, sempre a tutti gli sms, e quanti sono? Qual è il numero minimo o massimo di sms tollerabili? Quando io chiamo che ho voglia di vederlo, deve essere disponibile a vederlo. Sì, ma quante volte al giorno? Quante volte a settimana? Quante volte al mese? Dovremmo cercare di essere un po' più precisi, cercheremo di farlo con alcune ascoltatrici, già ci stanno chiamando, ma andiamo avanti istigandovi a chiamare all'800 24 0024. Io dico che stamattina i libri scellerati sono di particolare pregio. Andiamo intanto al punto e sentiamo quale, secondo Sofia, è il minimo sindacale per l'intima d'azione, almeno per lei. Non con il fatto se sia innamorato di me, anche perché lui non mi può amare, mi conosce poco. Pur frequentandosi, ti vedi una volta, due volte, tre volte, cinque volte, un mese, lui non mi può amare perché non mi conosce, può essere infatuato. L'amore poi è dopo. Allora, se anche l'uomo non è innamorato di me, ciò nonostante deve mettere in atto questi comportamenti. Sono i comportamenti, il minimo sindacale che io richiedo perché un uomo possa semplicemente condividere l'intimità con me. Innanzitutto devo apprezzare la sincerità di Sofia, che abbatte un antico e pretestuoso metodo per giustificare l'intima d'azione, l'amore. La do perché sono innamorata, la do perché mi ama. Ecco, togliamo questo cascame inutile. L'amore non è un motivo sufficiente, o perlomeno non è un giustificativo che è sufficiente per determinare un'intima d'azione, o perlomeno non è importante che ci si ami per l'intima d'azione, dato per scontato che l'intimo scambio di amorosi sensi, amorosi in senso totale, carnale e non solamente sentimentale del termine, significa che è qualcosa di reciproca soddisfazione, di reciproco sollievo. Quindi non necessariamente uno dice: ma sei innamorato, la prova d'amore. Fino a tutti gli anni 60 le povere fanciulle che leggevano fotoromanzi scrivevano alla posta del cuore di tutte le varie signore Letizia possibili e immaginabili: mi ha chiesto la prova d'amore, che devo fare? No, non dare la prova d'amore, aspetta, vedi, saggia, capisci. Ecco, oggi per la prova d'amore non occorre più, come dice giustamente Sofia, avere il pretesto dell'amore. Magari ci si innamora dopo, magari ci si vuol bene pure, ma all'inizio è la passione, è qualcos'altro. Siete d'accordo, non siete d'accordo? Qual è il vostro minimo sindacale per l'intima d'azione? Sentiamo l'ascoltatrice Valentina. Valentina, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Hai stabilito anche te una tua, diciamo, base iniziale di trattativa? Sì, ho stabilito una base iniziale, la quale parte naturalmente dal presupposto che la persona si ponga fisicamente pulita. Quindi igienicamente questa, a posto. Igienicamente a posto, altrimenti poi proprio non si va avanti nel porsi. Beh, è chiaro, alcune sovrastrutture potrebbero creare alcuni problemi. Questo adesso è pulito, diciamo, si deve lavare. Dopodiché quella è la base, diciamo, imprescindibile. Potrebbe essere il principe azzurro, ma il principe azzurro con la sgommata non si prende. No, assolutamente no. Deve essere la persona, per suscitare un interesse passionale adatto, da un lato deve avere un dettaglio fisico che riesca a suscitare un moto focoso, un punctum, direbbe Roland Barthes, un qualcosa che ti colpisce subito. Un qualcosa che mi colpisce subito. Va bene. Ma ad essere visibile o ad essere celato, nascosto, da scoprire? No, deve essere visibile, subito. Tale che io appunto mi accosti alla persona. Quindi nel volto, nelle mani, in ciò che... Nel volto, nelle mani, ma anche un modo di muovere, qualcosa che per qualche motivo evochi sfrenate passioni, diciamo. Va così. Bene, deve attizzarti al volo a naso. Esatto. Dopodiché al colloquio deve avere qualcosa che susciti anche un minimo moto mentale. Quindi deve avere capacità interessante, diciamo, di lettura, poi... introspezione e allucinazione di quello che potrebbe venire dopo. Esatto. Deve allucinare l'atto che poi tu saresti disposta a concedergli, sì, di compiere. Un decerebrato non attizza, questo è il concetto. Sì, beh, certo. Anzi, smoscia totalmente. Per prescindere almeno in parte dal requisito 3 deve trattarsi di un adone sconfinato e deve essere, cioè, talmente bello statuario talmente che se, bello... se anche scemo non te ne importa niente, ecco. Ovviamente nell'ipotesi in cui questa relazione una cosa... deve essere effimera, totalmente effimera, sì. Altrimenti poi il decerebrato infastidisce. Quindi se la statua del Davide, come una nota pubblicità che sentiamo in questo momento, potrebbe comunque suscitarti un amoroso senso, anche se poi è freddo come il marmo. Esatto, però ecco, per quel quarto d'ora non di più. Va bene, poi? Siamo a posto. Per ora direi che questi requisiti sono tutto. Altre dinamiche comportamentali poi sorgono per la relazione, messaggi, attenzioni. Ecco, sei d'accordo con, diciamo, con il minimo di attenzione quotidiana, rispondere almeno a qualche messaggio, esserci quello, quando ti cerca? Quello è per la relazione, io dico per il momento passionale. Per l'intima d'azione, non... però è giusto, l'intima d'azione ha questi presupposti. Sì. Se poi all'intima d'azione... contravvenendo alla regola che una è poca, due sono troppe, quindi se uno volesse poi andare avanti e farsi del male, dovrebbe comunque entrare in un altro ambito di trattativa, allora. Esatto, quindi con attenzioni, telefonate, messaggi, interessi comuni, cose diverse e ulteriori. E così comincia la relazione. Poi noi ci fermiamo giustamente all'atto precedente alla relazione, all'attimo della scintilla. Ti ringrazio, Valentina, e naturalmente sei fra le persone che possono concorrere alla meravigliosa attribuzione dei libri infami fra le mani questa mattina. Chi ha possibilità di andare nel mio profilo Facebook vede le copertine, chi sta alla radio si arrangia, perché lo dico soltanto alla fine. Avanti, c'è un altro ascoltatore, René. René. Buongiorno. Ma tu sei un uomo, cosa c'entri con l'intima d'azione? Come, scusa? È un uomo, non c'entra... Beh, sentiamo un po'. Sì, fino a prova contraria sono un uomo. No, ho sentito appunto la scheda di quella ragazza, di quella donna di 33 anni. Sofia, sì. Sofia. Affermava che gli uomini sono tutti uguali, ma cioè, non mi pare, perché poi se cominciamo a fare un cumulo, cioè che l'uomo è maschilista, l'uomo non è attento a... Ma in questo momento stai difendendo la categoria, no? Solo per capire. Certo, sei rappresentante sindacale categoria degli uomini, quindi difendi. La difendo perché non mi sembra giusto classificare tutti gli uomini allo stesso modo, ecco. Perché è così, Gianluca, o sbaglio? Non lo so, io non difendo mai gli uomini, io più trattano male gli uomini più sono contento, da parte mia, però se tu ti prendi quest'onere difendere la categoria dei maschi, certo, fallo. La difendo. Io perché... trovo che abbia ragione, Sofia, anzi, infamamente dico parte... ha ragione. No. Io mi metto dalla parte opposta a quanto ha detto, a quelli per cui che ha citato Sofia. Insomma. Cioè ti riacqua il tuo mulino, praticamente. Certo, ti proponi, diciamo, come possibile controparte interessata per Sofia? Sì, allora Gianluca... Sì, ma saresti disposto a... Guarda che Sofia non chiede poco, dice rispondere agli sms. E già comincia a essere qualcosa di abbastanza complicato. Vabbè, ma poi la cosa va a scemare col tempo. Non ti illudere, non è che va a scemare. A volte, anzi, aumenta in maniera geometrica, capito? Non è che va a scemare. Io non tutti speriamo che questo... SMS da... Forse uno ogni sei mesi, insomma, se è proprio una cosa urgente, una cosa che non... Sì, sì, ognuno amministra. Però è chiaro che quando l'amore è consolidato, insomma, l'SMS, già, quello è un approccio, secondo me. L'SMS serve solo alla fase iniziale. Ma guarda, invece, ma certo. Non lo so, poi ognuno... Una maniera molto comoda anche per dire butta giù la pasta, non lo so, comunque... No, ma Gianluca, allora... L'amore, una volta che è consolidato... Qua non parliamo di amore, parliamo di intima d'azione. Sono due termini che non sempre combaciano e coincidono. Allora, la passione. Non chiamiamolo amore, chiamiamola passione. Ok? A quanto pare, ultimamente, in qualsiasi radio che io ascolto, no? Si parla sempre di sesso. Io ascolto prevalentemente Radio 24, ce l'ho impostata... Parliamo sempre di sesso, non lo so. Ma ancora ieri. Ancora ieri addirittura satanismo e ti sei lasciato sfuggire un magari che non l'ha afferrato. Su cosa? Magari su cosa? L'interlocutore. Quando ha detto anche tu o anche lei, adesso non mi ricordo bene, anche lei è una setta. Come? Quando sì, sì. Che riesce a far fare. Scusa, ma che fai? Chierichetto di mestiere, cioè mi stai. Non lo so, fammi capire, ho detto magari, no, allora. Non ho pudore segare. Dei miei. Ti volevo segare perché. Ma sono io che seguo te invece, guarda mi dispiace. Magari, lo so, magari, lo so, è la dura legge della motosega. Chi ha in mano il manico sega l'altro e l'altro si fa segare. Mi spiace. Elisa, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo dire questo, che è molto carina la teoria di questa signora o signorina, però alla fine diventa una cosa anche un po' squallidina, cioè è la parte maschile di noi che esce, è perfetto, vorremmo veramente schiacciare un pulsantino e che tutto il mondo si rifacesse un attimo ai nostri desideri, ma purtroppo non funziona così, perché in questo modo si toglie il mistero, si toglie il palpito, si tolgono tante sfumature che ci sono in un rapporto erotico, sessuale, amoroso, romantico e chi più ne ha ne metta. Mi spieghi bene, Elisa. Dunque, lo stavo parlando di un. Abbiamo circoscritto il termine in maniera chirurgica, proprio isolato. Poi esistono mille sfumature, mille sfaccettature. Elisa ha detto: io sarei disposta ad avere un rapporto fisico, passionale, bello, amoroso con un uomo, però chiedo un minimo. Non posso farlo per una persona che mi considera uno straccio. Il minimo è che mi consideri minimamente, mi dimostri che gli piaccio e abbia un po' di passione quando io lo cerco, ci sia, non sia proprio volatile. Questa è la base. Poi da questa base ognuno può aggiungere o togliere quello che pensa. Allora, piacerebbe a tutte quante, a tutti quanti, avere l'uomo e la donna le cose che vorremmo avere, che purtroppo non abbiamo. Io le cito una frase di Don Abbondio, anzi del Manzoni, che riguarda Don Abbondio. Ma i preti c'entrano poco poi con l'intima d'azione. Senti, parlo una frase manzoniana, mi sono sbagliato, mi sono corretta. Se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. E qui, se uno la passione non ce l'ha, la può dare. Se uno il romanticismo non ce l'ha, non se lo può dare. È veramente una grande mestizia quella di chiedere qualcosa a qualcuno. Se non ce l'hai, ma non mi metto nella condizione povera, miserrima di chiederti qualcosa. Volto pagina, vado da un'altra parte o mi accontento. Sì, ma il suo approccio è senz'altro apprezzabile. Però dico, lei quando la dà, scusi il termine, per astratto, per quali sono le ragioni che fanno scattare lei questo desiderio di partecipazione alla passione? Se la giriamo così poi è la stessa cosa, cioè, quando una persona mi dimostra attenzione, passione, quando mi vuole sposare, quando mi dice vorrò essere la madre dei suoi figli, posso essere, io accetto qualsiasi tipo di risposta, però nel momento in cui arriviamo al momento della massima concessione tra due esseri umani, che è quello di condividere un'intimità, qual è la molla che fa scattare questa decisione? Ecco, messa così. Ma di essere apprezzata, essere coccolata, essere vista nella luce giusta, però ma sono cose effimere, che un mese, un anno, secondo i rapporti. Ma noi stiamo parlando di intima d'azione, mica di passare la vita assieme. Sì, ma allora forse non ho capito bene, cioè è quella cosa circoscritta a quelle due ore in cui io sono. Ma no, due ore, possono essere, guardi, due ore, cinque minuti o può essere una vita. La scintilla di una relazione nasce da quel momento. Sì. Quel momento cosa lo fa scattare? Ecco, in quel momento in cui uno l'unisono, devo essere l'unisono con questa persona, mi deve dare la sensazione che ci sia veramente. Ecco, però mi riferisco all'affermazione che ho sentito come enunciazione all'inizio della trasmissione di questa signora. Parla di pranzo, parla di messaggino, parla di presenza, schiacci, e questo signore mi deve venire a prendere, scortare, portare e vi dicendo. Non esistono queste cose. Beh, però guardi, se lo trasferiamo in un'altra epoca, anche soltanto 20 anni fa, quando telefono ci sei, se andiamo a fare una passeggiata mi ci accompagni, andiamo indietro ancora nel tempo, vieni a prendere il tè a casa mia con le zie, con la nonna e con la mamma. Sono sempre rituali, liturgie che mantengono viva la passione. Oggi è un SMS, perché siamo diventati tecnologici, ci espandiamo in questa maniera. È vero tutto, ma la signora si deve, e noi tutte donne, lasciamo perdere gli uomini di cui non voglio parlare, no, oggi non c'è un altro argomento, devono anche porsi il problema, ma questo signore desidera fare questa cosa, forse perché io sono la libertà totale, assoluta libertà nel senso positivo del termine, no? Del rapporto, cioè io non devo imporre di farmi il messaggino alle 12 o di farmi la telefonatina alle 5 e mezza, è una cosa terrificante. Sì, però guardi, ripeto, se lei ha ragione, lei vuole la totale consapevolezza, la partecipazione, però la piacevolezza di un rapporto, dell'esistenza di una persona, è fatta anche di piccoli margini illusori. Sapere che una persona, quando uno manda un messaggio, ti risponde, ti conforta. Uno non sta sempre a vedere se dietro questo messaggio che ti rimanda esiste una pulsione profonda e trascinata. Sì, ti basta ma, sapere. Dottor Nicoletti, lei sa benissimo che queste cose, questa, se non c'è la pulsione, io la pulsione me la invento. Una settimana, un mese o giù di là. Vabbè, lei proietta sempre tutto. Io non so nemmeno se arrivo alle 11 di oggi, no, quindi per dire, non mi pongo il problema. La signora, dall'alto della mia esperienza, dico che va incontro a una grossissima, a delle grossissime delusioni. Aggiustare il tiro, diciamo così, deve cambiare testa proprio. Vabbè, questo è il suo punto di vista. Lo mettiamo in lista, fra le tante ipotesi che questa mattina analizziamo, c'è un richiamo all'attenzione a non concedersi così facilmente. Melog 2.0. L'uomo oggi non si sforza per tentare un corteggiamento, per cercare di attuare i comportamenti che comunque fanno piacere, per larga parte per responsabilità di tutte le donne, perché nel momento in cui una donna, che tra l'altro lo fa sminuendo se stessa e per insicurezza, perché pensa di non avere altre armi per avere un uomo, si concede così facilmente, cioè sento di ragazze o donne così, si conoscono la sera dopo vanno subito a letto insieme, è normale che certe tipologie di uomini saranno propensi appunto a scegliere la prima che capita, e soprattutto se anche vede una ragazza che gli piace parecchio e questa chiaramente è più esigente, dice vabbè, ma chi me lo fa fare? Perché mi devo sforzare? La prossima ancora mi dirà di sì. La colpa in primis è da attribuire alle ragazze e alle donne, che dovrebbero essere rieducate per a loro volta rieducare l'uomo. 800240024, stiamo stabilendo questa mattina, avendo aperto un tavolo di discussione, qual è il minimo sindacale per cui una donna può concedere l'intima d'azione. Nasce tutto dal contributo di un'ascoltatrice, Sofia, che ci ha chiamato, ha voluto lanciare quello che perlomeno il suo programma generale. Sofia è stata molto attaccata, mi arrivano messaggi sia da donne che da uomini che ce l'hanno con Sofia, le donne l'accusano di leggerezza, di tradimento di genere, di eccessiva sregolatezza nell'intima d'azione. Gli uomini naturalmente accusano Sofia di porre dei limiti, sentono limitati nella loro meravigliosa capacità di espandersi virilmente, al di là di limiti, al di là di regole, vogliono essere sregolati. Alcuni uomini poi in particolare ce l'hanno, mi pare, come Carlo. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno. Io volevo, non ce l'ho con nessuno. Lumacone orripilante non è che sia proprio un complimento di quelli che empiono il cuore. Però... No, io faccio tre considerazioni, due sulla trasmissione che interessano tutti e poi la mia considerazione su come lei tratta il problema delle donne, ma questo è un fatto che possiamo anche non mettere a conoscenza. No, ma io mi metto in gioco e quindi accetto... No, torniamo al discorso più serio, vuole, al quale meglio per me. Sintonizzano gli altri. E generalmente si parla qui di considerazioni che fa questa Sofia, che fra l'altro dice delle cose non nuove, cioè sta descrivendo la tattica del tombeur de femme, del Casanova, che notoriamente è un uomo che è interessato a raccogliere numeri sulla sua agenda, non tanto a conquistare le femmine, ma avere un portafoglio di conquiste fatte. Però se hai sentito l'ultimo intervento, Sofia, dice esattamente, se mi consente, esatto, il contrario, dice sì. Cioè sono gli uomini che in realtà, le donne che si concedono troppo facilmente ai collezionisti, deprezzano la trattativa. Ma è per questo che invece confuto quest'ultima considerazione, perché se uno legge nella storia di Don Giovanni, Mozart, Casanova, i suoi diari, il comportamento classico dell'uomo è di appagare queste velleità della femmina che vuole essere trattata, così è. io personalmente... Vabbè, mica stiamo parlando di un animale da soma, mi sembra giusto che abbia delle esigenze. Vabbè, è un animale da soma in questa considerazione. Perché, cioè, scusi? Quando la dai, la do a chi mi vuol cavalcare, no? No, non ha detto... No. Cavalcare... Beh, lei si sta confondendo con gli animali da cortile che frequenta. Stiamo parlando di donne. No, ma si figuri, no, perché... sono animali da cortile, nell'accezione in cui lei... tratta da lumacone queste femmine. Io tratto lumacone. Perché, mi scusi, se c'è un minimo sindacale per darla, lei non mi può dire che non è prostituzione o che è una nobilità del rapporto uomo-donna. Ma mica stiamo parlando di denaro, stiamo parlando di attenzione. Il dono di attenzione? Ma cosa vuol dire attenzione? Se è notorio che le donne la danno a chi le tratta male. Ma questo sta scritto nella letteratura, nei libri, non è sempre così. Anche gli uomini si innamorano delle donne che gli sfuggono e gli mettono le corde. Perfetto. Quindi ma non siamo noi che scriviamo il profonda... Ma non c'entra il darla, il rapporto uomo-donna. Ma lei mi sembra sia molto infastidito... Della mia classe. Scusi, lei mi sembra molto infastidito, livoroso, rabbioso, il fatto che le donne abbiano la libertà di darla quando gli pare, chi gli pare. È lei che considera queste donne in una chiave da lumacone... come tutte le sue trasmissioni fanno, è questo che mi irrita. Se io fossi una donna, sarei profondamente incazzato. Grazie a Dio, lei non è una donna. Volevo parlare della signora e di quello che lei racconta. Però guardi, io non mi arrabbio mai, perché lei sarà? Ma si figuri, chi se ne frega, io mi sto arrabbiando con lei perché mi sta confutendo un discorso che sto cercando è mio diritto di esprimere alla radio. Se vuole attivare la sega, la attivi. No, se lei quello sa fare, sa usare le seghe, ma mi sta bene. Questi doppi Questo signore è molto arrabbiato, ma è logico che quando uno tratta con leggerezza temi legati alla femminilità, il genere maschile si arrabbia ed esprime con livore, con cattiveria, quelle che sono le sue, ahimè, piccole lacune personali. Certe cose dovrebbero rimanere nascoste, uno così facilmente poi le porta in superficie e si autosega da solo. Serena, buongiorno. Serena? Corra, eccola qua. Pronto? Eccomi qua, Serena. Ecco, io non avevo sentito il cappello della trasmissione, per cui forse sono fuori tema. Le volevo glielo riassumo, così evitiamo fraintendimenti, come il signore così arrabbiato di poco fa. Una signora ha detto, guarda, è giusto stabilire, alla luce della contemporaneità, della sensibilità corrente, degli usi comuni, delle derive della società, di tutte queste cose messe assieme, un minimo sindacale perché una donna si conceda a un uomo. Cioè, non è che sono contraria a priori a concedermi a uomini, anche se non c'è l'amore, perché la scintilla della passione può nascere prima dell'amore. Quando non c'è amore, quando c'è attenzione, io voglio però minimamente un po' di attenzione, ha fatto un elenco di cose, che ci siano, che non scompaiano subito dopo, altre signore hanno chiamato, che abbiano qualcosa che mi colpisca, anche un modo d'essere, insomma stabiliscono il minimo per cui le donne non siano considerate animali, come diceva il signore poco fa, o soltanto merce da sfogo personale. Mi sembrava una lecita istanza da parte di una donna che sto applicando e cercando di sollecitare altre persone ad integrare. Ecco, allora arrivata a questo punto devo dire che nel mio particolare modo di vedere e di sentire, che è quello di una persona di 70 anni, sono un po' fuori posto perché non potrei mai pensare di poter a suo tempo avere una relazione senza tutto il contorno che era caratteristico della mia età. Però è interessante, quindi... lei mi sta raccontando, mi interessa la storicizzazione, quella che era la minima piattaforma sindacale qualche anno fa per una intima relazione. Quindi io proprio non transigerei, ci dovrebbero essere tutti gli elementi per cominciare e poi finire. Non c'è un intermezzo per cui io posso pensare che da oggi a qualche tempo potrebbe finire. No, se io comincio con una persona, se io avessi se io avessi cominciato con una persona, dico bene, ho usato... No, perfettamente, non abbia paura, è interessante quello che dice. Io avrei continuato così, però quello che mi era rimasto impresso negli ultimi giorni è un libro che sto leggendo, che ho trovato su una bancarella a 4 soldi, che è quello che rappresenta per me l'amore. Si chiama Il Giardino Dorato ed è scritto da un 92enne che racconta la sua storia di questo grande amore con quella sua donna con la quale ho convissuto per 67 anni. E per me, ecco, questa è la rappresentazione dell'amore. Dell'amore nel senso dare se stesso senza nessuna prerogativa, se faccio bene, se faccio male. Io mi congiungo a quest'uomo perché di lui ho estrema fiducia. Lo amo, mi piace perché è una persona che sa completarmi e Se dura 67 anni per me è il massimo, siccome io quando leggo un libro praticamente vivo nell'atmosfera di questo libro. Se lei non l'ha letto, lo legga, perché... No, le ringrazio. No, quello sta dicendo lei è interessante. Bilancio un po' il tono che potrebbe sembrare all'apparenza cinico, disincantato e denigratorio di questa trasmissione. Per lei le premesse sindacali per un'intimità di rapporto sono profonde, sono perlomeno una proiezione ideale verso un rapporto che sia totalizzante, che duri non soltanto per l'attimo della congiunzione. Quindi sì, mi sembra... quello che volevo dire. È accettabilissimo, completa un quadro. La realtà è bella perché è variegata. Se non ci fosse questo, non ci sarebbe anche l'intima d'azione istantanea, mordi e fuggi. L'una completa l'altro e l'una dà valore all'altro. Certo, perché questo fatto degli SMS, secondo me, mettere questa tecnologia al posto del cuore non rappresenta... Però vede, se mi permette, signore, equivale alla lettera d'amore che lei considera un elemento necessario a quel rapporto di fascinazione per la sua generazione. Ma nello scrivere quanto sentimenti ci si possono mettere. Ma guardi, l'SMS condensa... guardi, glielo dico perché anch'io sono vecchio e quindi conosco queste cose, ma ho un piede nell'altra dimensione. L'SMS condiziona, perché poeticamente è la sintesi di tante parole, più efficaci, quanto arriva istantaneo, la lettera arriva dopo tanto tempo, può arrivare in ogni momento. C'è l'attesa però, signor Nicoletti, c'è l'attesa, la possibilità di rileggerla quando tu sei triste. Ma anche l'SMS, se uno lo mette in memoria, se non ha una moglie curiosa che va a guardare. Ma anch'io gli scrivo queste cose qui, però non darei mai un messaggio mio. Io lascerei ognuno la possibilità di attizzarsi con i mezzi che mette a disposizione. Sì, infatti, la sua. I miei figli fanno così, signor Nicoletti. Va bene, grazie, mi fa piacere, grazie signora. Melog 2.0. Allora, le tre tipologie di uomini nelle quali mi sono imbattuta almeno fino ad oggi sono tendenzialmente tre. Allora, anzitutto l'uomo, voglio dire, l'uomo un po' moderno, cosmopolita, quindi quello che si sente belloccio, che normalmente ha un approccio molto veloce, finge sicurezza nelle sue capacità, nella sua, vorrei dire, soprattutto esteriorità, quindi si sente alla moda, si sente carino, si sente molto glamour, e questo qua di solito ha la pretesa di arrivare da te e che tu debba cadere ai suoi piedi soltanto perché lui è arrivato, ti guarda, pensa di fulminarti con i suoi atteggiamenti super fashion, eccetera, e secondo me è un proprio da ridere. 800 24 00 24, diamo ancora la parola a Sofia, che è stata l'ascoltatrice a cui siamo gratissimi, che ha ispirato questa trasmissione con le sue aperture, con le sue leggerezze, con le sue pesantezze, con i suoi livori. Quando andiamo a toccare una materia così densa e così coperta comunque da pregiudizi, anche nel momento della massima libertà espressiva come l'intima d'azione fra uomo e donna, è chiaro che i sentimenti esplodono nella loro più variegata possibilità di essere forti, di essere penetranti, di essere anche ambigui. Andiamo avanti, perché Sofia ci sta facendo una tipologia di uomini. È importante sentire quelle che sono le categorie umane di sesso maschile che lei incontra e con le quali lei vorrebbe prendere comunque delle distanze o patteggiare comunque il momento dell'incontro. Poi l'altra tipologia è l'uomo, quello che io dico l'uomo molto ricco, comunque che stia bene, eccetera, che è un uomo che non punta tanto sulla sua bellezza, però magari ti corteggia, ti invita a cena e tenta di farti vedere quante cose a lui, che bello orologio che possiede, come si veste bene, come tutti lo ammirino, quante donne ha, che tutti lo cercano. Questo in realtà è una persona, una tipologia di uomo che si incontra abbastanza spesso, specialmente qua a Milano, però un po' dappertutto. Dal mio punto di vista in realtà denota semplicemente un modo di essere molto sicuro, che cerca di mettere davanti quello che ha per non svelarsi e non far vedere chi è lui. Sofia sta facendo un'analisi anche spietata del genere maschile, di coloro che ambirebbero comunque alla sua conoscenza profonda. E nella sua analisi spietata già esclude a priori quelle che sono le categorie per cui lei non sente assolutamente attratta. E quanto vi sentite in sintonia con la lettura umana? Cioè è umana, limitiamola, con la lettura del genere maschile fatto da Sofia, la persona che ha avuto il coraggio comunque di aprire un tavolo su questo tema controverso, sempre sfumato, mai direttamente affrontato. Cosa devono fare gli uomini di minimo sindacale per poter ambire all'intimità di una donna? Poi c'è la terza tipologia, io lo chiamo l'uomo sfigato, no? Che è di solito l'uomo bruttino, che però si sente di avere tanti valori dentro, quindi né particolarmente ricco né niente, insomma, che comunque sente di essere un uomo di cuore, un uomo buono, un uomo dolce, eccetera, e pensa che magari parlanti, chiama sempre al telefono, ti tiene un'ora a raccontarti tutte le sue cose, ti chiede le tue cose, le tue giornate, e fa tutte le riflessioni sulla vita, su tutti questi sentimenti, eccetera. In realtà non fa nulla per te, se non buttarti addosso tutte le sue cose, cercare di colpirti un po' con la sindrome, io la chiamo del cucciolo abbandonato, o del poverino che ha bisogno di una che si intenerisca di fronte a lui. Certo, per quanto uno possa essere pietoso con se stesso, è molto difficile sentirsi comunque al di fuori di tutte queste categorie, nemmeno minimamente lambito in alcune delle proprie esternazioni, espressioni di relazione con donne, da queste spietate letture che Sofia fa del genere umano. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, sono Massimo da Bergamo. Cosa ne dice lei? Ma io trovo sbagliato che una donna metta dei minimi sindacali, perché cosa conta, cosa vogliono dire 20 sms, 5 cene, 7 passeggiate? Non è la quantità delle volte che si esce, ma è la qualità e come si impegna il tempo passato insieme. Secondo me dà più importanza alle cose che dice un uomo e non a quante volte dice queste cose, insomma. Però lei capisce che in fondo anche la serenità e l'alimento di un rapporto sono queste piccole sicurezze, che il giorno dopo siamo usciti assieme mi dà un segnale di vita. Come siamo usciti insieme? Siamo usciti insieme parlando, guarda che bella quella macchina, sai, a me piace andare a correre, sai, guarda come sono bravo, guarda qui, guarda là, o invece è più importante, appunto come dicevo un attimo fa, in questi piccoli momenti che ci si vede, cercare di rendere la donna partecipe all'interno della propria vita. No, adesso ho capito quello che vuol dire Massimo, vediamo se l'ho interpretato bene. Esistono delle circostanze, dei frangenti fortunati in cui si ha la consapevolezza di lasciare dei segni così profondi, anche semplicemente una chiacchierata, esatto, un bicchiere bevuto assieme, qualcosa che si è condiviso, che uno non si dovrebbe sentire impegnato poi a dare conferme esteriori. Cioè, ti ho dato talmente tanto, quella mezz'ora ci siamo guardati insieme il tramonto, o quei 10 minuti ti ho raccontato la mia vita, o quella mezz'ora che abbiamo fatto una cosa assieme, che bisogno c'è che ti risponda all'SMS? Sai che ci sono comunque. Questo. L'SMS lo trovo una cosa un po' superficiale da parte mia. Va bene, diciamo, ci sono maniere profonde per segnare la qualità del rapporto. Se a questo punto, se una donna mette un minimo sindacale, anche da parte di un uomo ci può essere un minimo sindacale. Poi magari ne faremo un'altra, figuriamoci, un minimo sindacale. Potremmo aprire un tavolo da qui alla fine dell'anno. Andiamo avanti, Mariano. Sì, Nicoletti, buongiorno. Eccomi. Io invece trovo molto, molto valida questa idea del minimo sindacale, che addirittura andrebbe applicato non solo per l'intima d'azione, secondo me, ma anche nel caso di vita di coppia. Mentre lo sto pensando, ci vorrebbe anche un minimo sindacale nella tenuta di un rapporto, sennò è troppo facile. Poi si sentono battute, scambi tra coppie anche consolidate al vetriolo, senza rispetto, senza... Questo è una cosa. L'altra cosa che mi ha veramente entusiasmato è stato il discorso fatto da Sofia sulla faccenda del dover rieducare le donne per poi rieducare gli uomini. È come se avesse parlato con la mia testa e col mio cuore, per cui un abbraccio a Sofia, portatelo voi. L'unica cosa, ecco, forse non esagerare con le categorie, ragionare un po' meno da computer, perché non è che sia così semplice, a volte le categorie si mischiano un tantino. Senta Mariano, siccome siamo in coda alla trasmissione e devo assegnare i premi, e li stiamo assegnando, la giuria insindacabile composta da Fabrizio Intonti e dal professor Alessandro Chiappini ha deciso in questo momento che intanto uno dei tre libri se lo merita lei, quindi le assegno il libro infame che lei si è meritato con il suo intervento, che è stato particolarmente apprezzato. Se vuole le dico anche il titolo, poi lo avrà, lo riceverà a casa con dedica di tutti noi. Pronto? Grazie. Allora, il libro è di Andrea Gerardo Nappi, Libri in Auto l'editore, il sottotitolo è Il libro più odiato dalle donne e il titolo è Tra le gambe solo nylon, quindi è fortunato. Rossella. Buongiorno, Nicoletti. Vediamo, a lei la chiusura. Senta, io ho ascoltato con molta attenzione, in particolare questa trasmissione che seguo in genere tutte le mattine quando mi è possibile, ma perché mi ha toccato sul vivo, nel senso che mi riconferma quello che penso già da molti anni degli uomini, e cioè che sono molto spaventati dalle donne. Ah, questo... Chi non ammette questo, la parte del genere maschile, è un infame e un traditore del suo genere. Siamo spaventatissimi delle donne, chiaro. Sì, però alcune reazioni, anche abbastanza, come posso dire, cariche di lavoro, denotano un'incapacità da parte del maschio di, appunto, non... Beh, questo, quelle guardi sono piccole storie di pollaio che accadono fra noi uomini ogni tanto. Sì. C'è però sempre una sorta di gara... Quindi quello, se parla del signore prima, che mi ha un pochino trattato male, ma è normale, sono abituato. Sì, va bene, però voglio dire, anche nei confronti delle donne, la possibilità di dare un minimo corrispettivo, che può essere anche un semplice gesto di affetto, non necessariamente... Va bene, allora per lei il minimo sindacale è ancora più semplice e più gratuito e più a buon mercato. Devo dare il nome dei vincitori. Allora, il primo libro, Emma Bomberg, Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli, lo diamo a Valentina. Invece, La tua voce può cambiarti la vita, di Ciro Imparato, e farti raggiungere ciò che fino ad oggi ti sembrava impossibile, lo diamo a Serena, la signora che ricorda con grande attenzione e romanticismo le storie d'amore della sua vita. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.